Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara, abbiamo pochi secondi, siamo pieni di roba oggi. Benvenuti. Dobbiamo andare rapidi. Allora, parliamo di alberi, di quello che abbiamo fatto dal 1800 fino ad oggi. E poi un saggio, il corpo accusa il colpo, titolo strano, aspettate che ve ne parliamo. E poi concluderemo con un racconto su quella che sarà la missione ExoMars, che sta per partire la prossima settimana, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea. E allora via. Federico, ora parliamo di alberi, perché qualche settimana fa su Science, quindi una rivista piuttosto prestigiosa, sono stati pubblicati due lavori, due articoli, uno francese e uno anche con una parte italiana dell'ISPRA in provincia di Varese, in cui c'è stato tutto uno studio su quella che è stata la forestazione e la deforestazione dal 1850 a oggi. Si è fatta un'analisi e ciò che è venuto fuori in parte è sorprendente e in parte no. Cioè, vale a dire che c'è stato ovviamente nel primo periodo, tra il 1700 e il 1850, un forte sfruttamento intensivo del legname, perché dovevamo scaldarci in qualche modo. Poi dopo, ovviamente, con l'arrivo del petrolio, abbiamo risparmiato un po' più di foreste e abbiamo sfruttato un po' più il sottosuolo. Intanto che dal 1850 abbiamo cominciato a riforestare, ma forse non in maniera corretta. E per questo noi vorremmo un commento di una persona, insomma, di un esperto che ne sa, e qui con noi questa sera c'è il professor Giuseppe Barbera. Buonasera. Buonasera. Lei è ordinario di colture arboree all'Università di Palermo, ha scritto anche due libri per Mondadori, Tutti i frutti e Abbracciare gli alberi, quindi professore, forse abbiamo utilizzato delle specie che non avremmo dovuto utilizzare? Ma in alcuni casi sicuramente sì, in moltissimi di no. Perché il problema della specie, di scegliere la specie giusta, non è un problema che possa essere generalizzato. Naturalmente l'Italia è talmente varia dal nord al sud, per cui le specie cambiano quasi a ogni regione, direi. E poi soprattutto il problema non è soltanto la scelta della specie giusta, è saperla gestire. I boschi che noi piantiamo sono boschi che dobbiamo sapere coltivare, non basta piantare un albero e lasciarlo, abbandonarlo a se stesso. È quello che spesso non facciamo. In Sicilia, per esempio, al sud in generale abbiamo piantato moltissimi eucalitti, dove gli eucalitti non dovevano essere piantati perché non sarebbero cresciuti alla giusta velocità e quindi non avrebbero assorbito tanto di quel carbonio utile a diminuire l'effetto serra, l'accumulo in atmosfera. Oppure abbiamo piantato soprattutto una grande quantità di pini, pini d'Aleppo, di pini marittimi, che non abbiamo saputo, li abbiamo piantati e poi li abbiamo abbandonati a loro stessi, non abbiamo fatto delle elementari operazioni colturali, che è il diradamento, cioè dare spazio agli alberi, poi in questo spazio piantare le latifoglie, le piante della foresta mediterranea, le querce per esempio. Ecco, ma perché infatti nella ricerca si dice, ovviamente era estesa la ricerca e analizzava, diciamo, i territori di tutta Europa, e si diceva che appunto erano stati privilegiati conifere, quindi, come dire, alberi a foglie strette, non latifoglie. Questo è un problema, perché proprio la superficie della foglia permette un maggiore scambio di CO2 e ossigeno? Sì, questo sicuramente, le dimensioni delle foglie c'entrano molto. Poi ricordiamo però che le conifere sono sempre verdi e molte piante di cui parliamo invece d'inverno perdono le foglie, quindi non assorbono l'anidride carbonica. E poi gli alberi si piantano per tanti motivi insieme, no? Noi abbiamo piantato moltissime conifere soprattutto nelle regioni e nei paesi del nord, perché lì abbiamo privilegiato l'industria del legno, non la produzione di legna, più che gli aspetti, più che gli aspetti ambientali. Cioè, scusi professore, allora per esempio nelle città noi abbiamo un sacco di alberi che non dovremmo avere, perché per tutto l'inverno sono spoglie senza foglie, tantissime. Però non avendo le foglie ci arriva il sole. arriva il sole sulle persone che passeggiano, nelle case le riscaldano e quindi abbiamo bisogno di meno spese per il riscaldamento, che significa meno impiego di energia. Giusto. E quindi quello che perdiamo da un lato guadagniamo dall'altro. Quindi gli elementi in gioco sono veramente tantissimi e appunto, come diceva lei all'inizio, bisogna tenere conto della situazione, ovviamente del territorio che si va a rimboscare, di quello che è appunto tutta la peculiarità di una zona. Non si può fare un discorso generalizzato, ovviamente. Non si può fare un discorso generalizzato per i motivi che ha detto lei. Bisogna sempre ricordare che gli alberi servono a tantissime cose insieme, dal legno all'ombra, al carbonio che assorbono, alla bellezza, no? All'identità, alla memoria, no? Si pianta un albero quando nasce un bambino. E tutte queste cose devono essere tenute insieme. E poi soprattutto gli alberi vanno gestiti, vanno coltivati. Questo è fondamentale. Perché significa coltivare il bosco, non abbandonarlo a se stesso. Noi da questo punto di vista in Italia siamo dei bravissimi selvicoltori e adesso ci dobbiamo porre il problema dei molti boschi che stanno nascendo. In Italia il bosco sta prendendo grandi superfici, ci fa molto piacere da un certo punto di vista, ci preoccupa dall'altro perché sta strappando il terreno all'agricoltura. Ecco, e qui l'agricoltura non è un uso del suolo dal punto di vista ambientale peggiore del bosco, ma molto spesso è migliore perché c'è l'uomo lì presente che agisce sul territorio, difende i terrazzamenti, cura le piante, quindi è un equilibrio difficile. Ci sono molte prove, molti articoli che dicono in questo momento sì, siamo contenti che le superfici a bosco in Italia aumentano, 7.000 ettari l'anno all'incirca. Ma saremmo più felici se quei 7.000 ettari o parte di quei 7.000 ettari restassero con gli agricoltori, con la cura, con l'attenzione dell'agricoltore che vive in montagna, in campagna. Va bene, grazie mille professore per questo bel racconto. Insomma, abbiamo capito che il bosco va valorizzato, va monitorato. Va curato. Grazie. Buona grazie ricerca, professore. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Il corpo accusa il colpo, titolo strano per un saggio ma efficace. Sì, è un libro scritto da uno psicologo americano, Bessel van der Kolk, edito da Raffaello Cortina. Perché questo titolo? Perché il saggio è dedicato a una particolare patologia che in inglese è definita da un acronimo, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, ovvero disturbo conseguente a un trauma forte, molto intenso. Forse ne avrete sentito parlare a proposito di soldati che hanno vissuto momenti di grande difficoltà, improvvisa, di paura nelle varie zone di conflitto, ma in generale questo genere di traumi è ancora non sufficientemente riconosciuto. Se ne parla nel caso di militari, ma non per violenze subite da donne o bambini, per esempio. E questa infatti è la prima domanda che ho fatto a Bessel van der Kolk. Storicamente vediamo che sono gli uomini orgogliosi, forti, che sono riconosciute che le principali vittime del trauma, mentre non si tende a descrivere casi di donne e bambini traumatizzati, anche se c'è stata una riscoperta di questo tipo di vittime oggi. È attraverso l'analisi dei traumi subiti da uomini che si è arrivati ad analizzare anche quelli vissuti da donne e bambine che sono vittime alla stessa stregua, che soffrono della stessa sindrome da stress post-traumatico. I casi di donne e bambini, questi casi sono molto più numerosi, ma poiché non se ne parla, poiché rimangono nascosti, invisibili, non sono venuti alla ribalta, ma alla fine il trauma subito da una categoria e dall'altra, diciamo, è esattamente lo stesso. Fra l'altro ho potuto trattare molti uomini vittime di violenze sessuali da parte di preti cattolici. Gli uomini però tendono a essere molto orgogliosi, si scompaiono dalla scena, forse assumono alcol, droga, non ne parlano, non vengono fuori. qualche notizia dal traffico adesso e poi ritorniamo sullo stesso argomento. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Prima del traffico stavamo trattando con un'intervista a Bessel van der Kolk, che è uno psicologo americano, stavamo trattando un disturbo molto particolare, in inglese ha una sigla PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, cioè un disturbo che nasce da uno stress per un trauma molto forte. Continuiamo l'intervista, che è appunto a Bessel van der Kolk, autore di un saggio Il corpo accusa il colpo, edito da Raffaello Cortina. E chiedo a van der Kolk, quindi abbiamo un PTSD che proviene da situazioni molto diverse, che possono essere quelle di una guerra oppure di una violenza forte domestica. Ma allora, che cosa c'è alla radice di comune in appunto questo tipo di disturbo? La questione chiave del trauma è un evento che avviene e che mette a repentaglio la propria vita. È in una situazione in cui non si riesce a reagire, a correre, a contrattaccare, e quindi si è paralizzati, quindi si è magari un uomo forte, ma si è intrappolati e si vede magari i propri amici, i propri compagni di battaglia morire sotto il fuoco nemico senza poter far nulla. O ancora il caso di molestie sessuali ripetute subite da una donna, da un bambino, in cui non si è in grado di reagire, di far nulla. Quindi è questa situazione di essere intrappolato, di essere passivo di fronte al trauma subito. E sicuramente il trauma, se accade nei bambini, sicuramente sarà molto più pervasivo, in quanto il cervello è ancora in fase di crescita, non è ancora formato, per cui lo danneggia per sempre. Chi è colpito da questo trauma non riesce a parlarne, fa dei tentativi, ma sono esperienze traumatiche pure questi. Come mai abbiamo questo comportamento? E la questione è che accade un qualcosa di così orrendo che non se ne può parlare. Pensiamo al vostro primo Levi, che non è quasi praticamente riuscito a parlare della sua esperienza nei campi di concentramento. Sì, ci ha provato, forse è stato più bravo di tutti gli altri a descrivere questo tipo di esperienza, ma diciamo che quanto è vissuto è così terribile, orrendo, che non ci sono parole per poter esprimere questo orrore. Non solo non si hanno le parole per mettere appunto nero su bianco un'esperienza, una sensazione, ma anche non si vuole neanche sentir parlare di queste cose. Non solo non si riesce a parlare, sembra anche che non si voglia udirsi raccontare. E il motivo per cui non riescono a raccontare la storia a se stessi, perché nel momento in cui si comincia a parlarne, ecco che si rievocano gli stessi sentimenti di dolore provati al momento, non se ne vuole parlare. Questa paura ritorna a livello corporeo, per cui si cerca di mandar via questi pensieri, questi ricordi, perché troppo dolorosi. Chiara adesso vi porta fuori dalla Terra, nello spazio, in particolare su Marte. Ascoltiamo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Il countdown è cominciato. Mancano pochi giorni al lancio di ExoMars, la missione organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Russa Roscosmos per una nuova esplorazione del pianeta Marte. La missione prevede due fasi. La prima, quella che partirà la prossima settimana, ha l'obiettivo di studiare l'atmosfera marziana e testare le tecnologie per l'atterraggio, o ammartaggio lo chiameremo, della sonda in preparazione del secondo lancio, che si realizzerà invece nel 2018 e che porterà su Marte un rover robotico in grado di penetrare e analizzare in profondità il suolo del pianeta. Sarà la prima volta che una missione riuscirà ad indagare la composizione così profonda del sottosuolo marziano alla ricerca di tracce di vita. Come ci spiega Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quello che noi arriveremo con ExoMars, soprattutto nel 2018, quando la trivella italiana, il trapano che scende a 2 metri di profondità e andrà a osservare cosa c'è sotto il primo strato molto secco, molto arido e battuto dalle radiazioni, andrà a vedere sotto. Se ci sono lenti di ghiaccio o di permafrost, ovvero ghiaccio più sabbia, più suolo, se fosse così, a questo punto sapremo nel futuro che potremmo andare lì e se ci andrà un astronauta e vuole trovare l'acqua, la trova non troppo in profondità e quindi la può usare. Su ExoMars 2018 c'è uno strumento che è interamente dedicato a scoprire se ci sono tracce degli elementi base della vita, ovvero una catena di aminoacidi, per esempio, o una catena organica più complessa. Avrà uno strumento apposito. L'Agenzia Spaziale Europea ha assegnato al nostro paese la leadership della missione. Sono infatti italiani gli strumenti principali per entrambe le fasi di ricerca. Il modulo di discesa di ExoMars 2016, denominato Schiaparelli, in onore del nostro astronomo dell'Ottocento, grande conoscitore del pianeta rosso, e la trivella che perforerà la superficie marziana nel 2018. Lo Schiaparelli è uno strumento molto sofisticato, composto da una stazione meteo tecnologicamente avanzata, dotata di sensori per la misura dei parametri climatici, e questo sistema è fondamentale per studiare le condizioni ambientali durante le forti tempeste di sabbia che contraddistinguono il clima marziano. La missione ExoMars partirà tra pochi giorni dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Dopo un viaggio di circa 7 mesi e oltre 100 milioni di chilometri, entrerà nella sottile atmosfera di Marte, a 21.000 km orari, e poi attraverso dei razzi sarà possibile ridurre la velocità fino a 15 km orari per eseguire in soli poi 8 minuti un atterraggio, un ammartaggio controllato dalla Terra. I dati che verranno raccolti in questa fase di missione saranno poi utilizzati per la seconda, quando arriverà su Marte il rover dotato di un innovativo perforatore. Questo dispositivo, progettato e realizzato in Italia, sarà in grado di eseguire un carotaggio molto profondo per conoscere la conformazione rocciosa e la presenza di lenti di acqua, grazie a uno spettrometro che analizzerà in tempo reale la composizione geologica e biologica del sottosuolo. Jorge Vago, scienziato dell'Agenzia Spaziale Europea, qui spiega lo scopo finale di ExoMars. And we will go down to 2 meters. This is very important. Noi preleveremo campioni fino a 2 metri di profondità. Questo è molto importante, perché sotto la superficie e in profondità potremo trovare le prove certe che dimostrino la presenza di vita presente o passata su Marte. Good morning. Welcome to NASA headquarters in Washington. My name is Dwayne Brown with the Office of Communications. Ladies and gentlemen, the journey to Mars just got a whole lot. Questa è la conferenza a settembre 2015, quando la NASA annunciò al mondo intero la presenza di acqua salata e liquida su Marte. Le immagini diffuse dall'agenzia americana mostrarono chiaramente la presenza di striature provocate dall'erosione di acqua che scorre sulla superficie marziana. Ora Flamini qui ci spiega come si formino questi solchi. Parliamo di affioramenti di acqua con molti sali disciolti e quindi soprattutto della presenza di questi sali idrati per periodi limitati di tempo che corrispondono al fatto che un po' d'acqua scorre, lascia questi sali e poi l'acqua evapora e i sali compaiono e si ripete il ciclo. Marte ha le stagioni come la Terra, stagioni invernali e stagioni estive. La temperatura media di Marte è molto più bassa di quella terrestre, però d'estate, nelle zone equatoriali, che sono più o meno le zone in cui sono stati visti questi affioramenti, può superare lo zero, ovvero può superare il limite in cui, l'acqua è ghiaccio e l'acqua si scioglie. Perché la pressione di Marte è bassa, il punto equilibrio dell'acqua su Marte è tale per cui per un breve intervallo di temperatura e pressione l'acqua può rimanere liquida. Tornando a ExoMars, non è un caso che l'Agenzia Spaziale Italiana abbia dedicato proprio a Giovanni Schiaparelli lo strumento principale della nuova missione ExoMars. L'astronomo piemontese infatti fu il primo a ipotizzare che su Marte ci potesse essere acqua. Arrivò così a formulare la famosa teoria dei canali di Marte, tanto criticata allora quanto accreditata oggi. Era il 1893, quando Schiaparelli pubblicò Il pianeta Marte. Dopo oltre 20 anni di studi e osservazioni del pianeta rosso, l'astronomo rilevò con il telescopio le irregolarità della superficie e una fitta rete di strutture lineari. Tutta la vasta estensione dei continenti è solcata per ogni verso di una rete di numerose linee o strisce sottili di colore scuro. Queste linee o strisce sono i famosi canali di Marte. Per queste affermazioni Schiaparelli fu oltraggiato e attaccato dall'opinione pubblica e dal mondo accademico. In realtà Schiaparelli finì in una trappola linguistica che gli creò non pochi problemi, perché la definizione di canali fu tradotta in inglese come canal anziché channel, quindi un sostantivo che rimanda a un manufatto artificiale, cioè costruito dall'uomo, e da qui la diffusione della notizia che uno scienziato italiano avesse scoperto segni di vita su Marte. L'astronomo inizialmente accettò questo equivoco che tanta fama gli aveva generato, ma in seguito alle critiche di molti e importanti colleghi fu costretto a fare un passo indietro e a dichiarare che i canali altro non fossero che illusioni ottiche derivate dalla scarsa risoluzione dello strumento usato per le osservazioni. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Le sue teorie furono completamente dimenticate. Fino ad oggi, a distanza di oltre 135 anni, l'esplorazione del pianeta Marte riapre per certi versi alcune delle interpretazioni del nostro astronomo. Adesso la parola agli scienziati europei. È loro il compito di confermare quanto fin qui ipotizzato, cercando le prove dell'esistenza di vita passata o presente, primitiva o evoluta, al di fuori della Terra. Anche lui, David Bowie, è andato nello spazio ormai. Eh sì, lui probabilmente sarà già là ad attendere i nostri dell'Agenzia Spaziale. Beh, un bel ospite. I nostri robot. Va bene, allora intanto incrociamo le dita per la missione che sta per partire e ricordiamo velocissimamente che questo è il weekend delle uova dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. In questo weekend, fino al 13 di marzo, trovate in tutte le piazze italiane, in molte delle piazze italiane, le uova di Pasqua con un contributo minimo di 12 euro. Aiutate la ricerca. Mi raccomando. Ecco. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao!